Quello, ma grandi tecnici usano quello, per esempio, come modificano radio, roba del genere. Capito? Va bene, ma comunque i watt già sono sciuri. Poi bisogna vedere da strumento a strumento. Quelli alla microchatte ci hanno magari più, più piccolo di modulazione. Questo è preciso. Cambia di poca roba. 5,35 a bassa potenza, 80, 120, 130, dipende. KK, andava bene. E manda laterale quanto fa quella? Io manda laterale l'avevo già provata. Manda laterale è portante muta, non ce n'è, però i picchi di modulazione sono intorno ai 180. È positivo, va bene. Sì, va bene, anche col turner va bene. Beh, l'unica prova che non avevo fatto l'unica prova che non avevo fatto ancora, però così è troppo alta, non mi piace a me, la mettiamo così, no. La metto a 4, a 3, dai, così già va bene. E lasciala così, già va bene lo stesso. Va bene anche così, là. È una bella radio lo stesso, là. Non ce n'è problema. No, già va bene, io voglio. È anche troppo spinta, sento un bel di rumori, un bel di cose, già va bene. Ma niente, adesso vabbè, ho provato anche il cover. No, oh, nel luogo del bongo lo metto a posto e mi inserisco il superstar, mi metto il superstar, dai, per fare due chiappe. 87 l'ho provato, va benissimo, ma il Typhoon 2 che c'è sempre quel problema del, del colpettino, quella settimana oggi non c'era Andrea. Settimana ci salgo e lo controlliamo tutto, mo vediamo che cosa cacchio li ha preso. Pompa, pompa. Che cosa? Tutta la radio, pompa, pompa, buonasera a tutti e due. Ciao Antonio, no, sto usando il Cobra a minima potenza. 5 watt, va bene, ha quasi 30 di picco. La modulazione è buona, è coltarne più 3. E a voi, io invece sono sempre il solito, quello di ieri sera, modulazione bassa, che Marco, quando parlo al bar, Marco mi capisce, figurati tu, senti anche il televisore, addirittura, di canale, c'è Simona. Come lo senti tu, Antonello Massimiliano? Io ti sento peggio di ieri. Ieri eri uno spettacolo, oggi non mi piace la modulazione. Come lo senti tu, Massimiliano? No, non piace neanche a me, perché tanto c'ha una burotta dentro la camera che è una cosa spaventosa. La giornale copre la modulazione. Magari si abbassa qualche cosa, radio, televisione, balle varie. Allora magari si riesce a capire qualcosa. Io non aggiungo un peso nulla. Adesso va meglio o va peggio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso va già meglio. Beh, si sentiva tutto, Antonio, capito? Vabbè, l'altra cosa che guarda quello che... vabbè, quello che ho io in pratica. L'unico che funziona meglio degli altri, la verità. Quindi figurati tu. Modificato. Così è amarezza. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ottenendo, ecco, così è la minima potenza. Allora, con la radio tutta chiusa, molto più forte, c'ha il picchio di belli di modulazione. Cosa c'hai vicino? Qualche alimentatore c'hai? No, non ho alimentatore, c'ho il baracchino, l'alimentatore è sotto. C'ho più che altro... aspetta, l'HF è acceso, adesso l'ho spento, sentivi un fruscio. Adesso è bella, chiara. Chiudi un altro pollino in vacca, Antonio. Aspetta. Eccolo qua, ci va bene, questo è come modulo di tummi, poi l'attacco lineare, in pratica, guarda un po', aspetta un attimo, che Pixie c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono due salette, lo sai che io ho la voce bassa, non ce l'ho alta, perché Marco quando io vado al bar, qui vicino, mi dice alzami la voce, alzami la voce, e direttamente non posso sollevarla, io ce l'ho mai soffocata la voce, sono vecchio, che cazzo sollevo. Abbassa la radio, abbassa. No, va bene così comunque, avanti qua. Va bene, va bene. Sì, poc'anzi non mi piaceva, adesso già va bene. Ti ho detto, basta togliere il trim, c'è bisogno delle promodulatore. Basta togliere il trim nelle VC, che il coso è fatto. Li metti l'ecco. Ecco, corto, quello qua, tanto ci sono due fili del pulsante, potevi collegarli allo smitter, eccetera, eccetera, quindi è un giro strada questo bisogna fargli, e quindi ho preso e lasciato così com'era questo altro tassista, a un certo punto. Ed è quello che sto usando, il 2009 è da una parte, e vabbè, lo Yaris lo uso per più che altro con la discona, perché vado in 40-45 a ascoltare e sono a posto. La X700 l'ho eliminata, la X30 l'ho data e quindi sono a posto. Capito, Dio, già va bene, già va bene. Cazzo, una KF sembra che c'hai in mano, grazie, davvero. Non te ne più tre, te ne più tre. Poi, secondo dove lo abiti, parlavamo con Gianni, con Giulio stamattina, scrivono per gli abiti questi cacchio di microfoni, sparano maledettamente, questo sul Cobra, PLL, anche sulla Superstar, su baracchini così funge bene. Sì, sì, va bene, va bene, ho voglia, una bella lavorazione. Vabbè, vuol dire che anche questo le facciamo la X, non in vendita. Quello che incontra la timbrica tua, a te qualsiasi baracchino va bene. Anche uno scaldabagno funziona bene, non so l'altro. Tu sei come quella la buon'anima di coso, di quello che c'era in via Vendola. Quindi tu sei uguale, ma se dai tu a me quell'apparecchio che c'è tu e ce lo metto qui, sarà per quello che fa schifo di modulazione, e già lo sai anche tu. Vabbè, Antonio, non tutti siamo uguali, usiamo il basta. Io baracchini ho invece, li sto tutti provando, testando, perché sono in vendita e bisogna fare bella figura. E ti posso dire che sono veramente soddisfatto, ma soddisfatto più che soddisfatto. Vanno tutti bene, sono tutti in ordine, tutti belli ordinati e puliti. Questo tane più tre non voleva visto. È tornato nuovo, perché sai, quando lasci la cosa in stato di abbandono è un casino. E quindi adesso è perfettamente funzionante. Capito mi hai, Massimiliano? Sì, capito Dio, bella, no, non devo dire niente, una bella radio, bella modulazione. Sì, bella, veramente bella. E vabbè, sta prova, non l'avevo ancora fatta, me l'hai detto tu, prova a farla alla fine. Mi sono deciso, ma è molto grande sta radio, non fa tenerla sopra questa, capito? Adesso vediamo, trovo una sistemazione, la facciamo andare oppure rimetto l'87 come c'era. Va bene che va bene. E tu non sei andato da nessuna parte? No, c'è Gaia, ha iniziato i compiti adesso. Vince all'otto di nuovi. Dove devo andare? Stamattina sono uscito lì al mare un po', ho fatto quelle cose lì. E niente. E a casa sono qua. Capito, sono a casa. E già va bene, dai. No, anche noi non siamo andati da nessuna parte. Non sono andato da nessuna parte, ma io volevo andare. Ho la partita, ma non ho giocato, sono stanco, questa settimana c'è un sacco di cose da fare, c'ho lavori sul condominio, devo andare anche in campagna. Domenica, oggi mi volevo riposare. Facciamo avanti stamattina per mangiare il cane che c'è Gaetano e basta, poi ci siamo rientrati. Ed ero in radio, ho acceso così, a Giavrusciato è entrato Giulio, poi è entrato Gianni, mai di domenica mattina io mi sono messo a parlare. Però c'era gente, ho fatto due chiacchiere. Anda bene, avanti Antonè. Dittemi tutto, dittemi tutto, tu sei due. Devo dire, giusto, avanti. Tutti vendendo, buh. Io invece mi tengo, la verità. L'ultima cosa che ho venduto io è le cose, è stato un ecco. 150 euro. Come l'ho trovato, dice, se avessi avuto l'avrei preso io. Aiutami, non me la fotti nulla. Quanto l'ho pagato, l'ho dato io. Io sono un accattone che va a guadagnare soldi così, non me l'ha fottuta, io l'ho pagato così, io lo rivendo così, basta. Ho preso 20 centesimi di pizzi e la palla che è garantito. Non è che deve venire uno a rincorrermi per dire lo vendo 200 euro e poi a telefonarmi, mi dice no, l'apparato non va più non va bene, non funziona bene, eccetera, eccetera, non lo voglio così così io. Quindi a un certo punto a me non deve cercare nessuno, questo l'ho venduto così, a posto, è contento, non si è mai lamentato, quindi sono tranquillo, almeno quello. Io ti senti qualcosa, se voglio voglio roba come si deve. Aspetta che c'è il telefono, sta squillando due minuti e arrivo subito. Aspetti un attimo. Ehi, ma molla però, cazzo non te fa vedi? Te l'avrei fatto vedere io per 150 euro, infatti gli stanno corteggiando subito, immediatamente. Sono venuti e ce l'hanno preso. 150 euro è un Galaxy, che si roba la matti. Prova a farlo quindi a gatti da comparato e ce lo vende 150 euro. Manco te lo fa vedere a 150 euro. Ah, Massimiliano, cazzo 150 euro è un Galaxy. No, stanno andando, i Galaxy stanno andando dai 200 a 250 a 300 pure. Mi per 150 euro potresti trovare l'Excalibur, quello Colt, là, quello senza il frequenzimetro, capito? Va solo 80 canali e boh. Ah, ma cagata, dici, ce l'ho avuto. Ce l'ho fatto prendere io a Antonello, quello, nuovo nuovo. Era da pulire perché era fermo. E infatti proprio perché era fermo ci aveva qualche cosettina da vedere di potenziometro eccetera, ma era nuovo nuovo con la radio. Giustamente lui l'ha pagata a 150, 150 se l'ha venduta, ma l'avessi presa io a 150 non l'avrei data, me l'avrei tenuta e basta. Proprio per non specularci, ma la gente già ci specula sulla radio, non ti preoccupare. Compra 100, vende 200. Ne ho visto e ne ho sentito, lasciamo perdere. Comunque, va bene a lui, figurati a me. Io, il mio Galaxy, l'ho venduto a 300 euro. E non usciva da qua se non era quella cifra. Quindi, va bene, quindi si tutta la sera a casa. Ma via, me ne mangio lì alla paranoia. Chi cazzo, uno come te per stare tutta la sera a casa? No, io, no, già sono abituato. La domenica adesso no, però più avanti quando fa caldo caldo ci andiamo in campagna, c'è la biglia luce. Però oggi la verità mi avevo voglia. Infatti mi detto, arrivate qua a pranzo, no, me ne stavo a casa. Me ne stavo a casa e mi sono messo a fare queste cosette. È un casino. Adesso io non c'ho manco spazio qua. Avresti fatto una passeggiata e l'avresti portato qua quel Titanfall a vederlo. Ehi, Massimiliano, già lo sai che ha ragionato, quindi già la si mette a posto, quindi sicuramente qualche falso contatto come era Antonello, perché le dai un colpo e parte, ma non è che una radio può funzionare a coppia, la si mette a posto, l'importante è che siano tutte le altre a posto, almeno 5, quanto sono 6 una che è da rivedere, perché il resto sono tutti a posto, tutte lucidate, tutte pulite, anche i microfoni, quindi se l'ho fatto MB4, non voleva visto com'è, tutto binghinoso, tutto rugnoso, fatto nuovo, senza essere veneciato, per carità, pulito bene. C'ha qualche graffiettino ma non si vede neanche. Il camera è spettacolare. Nuovo. E quello conviene tenerlo con quella abbinamento così, alla grande. Sì, ma tu non esci il microfono, anche il P5 esce. No. Ho fatto la foto, quella che ho passato a te, giusto per te le avete i piedi, ma poi pensandoci bene, li provi, guarda che risultati, i microfoni sono nuovi, no? Non è mondetta, no? Quindi li tengo. Si tengono i microfoni, sono sempre microfoni che si possono abbinare a qualsiasi tipo di baracchino. Avevo provato il Superstar io col P5, è una bomba, non te la metti. Sì. No, il Superstar non l'ho sentito, quello è il 360. Oh, l'hai sentito, il primo che ho provato con il MBP5. Esci così, uguale, preciso identico a questo. La modulazione rimane un pochino più con tonalità medio-bassa, ma siamo lì, pompa che è una meraviglia, è nuova, Clara. C'è la cromatura e la paura, nuova, tutta pulita, anche quelle, tutti i pomelli, sono luci. E quella l'ho rimessa dentro la scatola. Bucla, non me la ricordo io quella, la modulazione, non me la metto, è una linea, Iura. Ne abbiamo parlato, no? Cioè, perché puoi fare figure di merda quando li vendi, ti trai, la radio non va, no, aspetta un attimo. Allora bisogna testarle, provarle, se c'è qualche cosettina da fare si fa, però sono, adesso sono in ordine, sono pulite. Capito? Vabbè, questo è il Cobra e non si tocca, questo va nuovamente dentro l'armadio, era giusto per fartelo sentire col tame più 3 che non te l'avevo fatto sentire. Però gli altri sono da... Sono, bisogna fare contare sino a 10 prima di darle. Sì, vabbè, conteremo, vediamo se contare o no. Magari dovremmo a 5. Ma infatti, alla fine. Che scelto bomba, ola. Effettivamente in cuffie non è che si allontana molto dall'MC60. Te lo sto dicendo, ti ascolti, grazie, ma è micidiale. E vedo già 3 Milton, non lo salgo molto, se no faccio soldo a Giannino Broffetta. Capito, questo locale già va bene così, ce l'ho 2,5, La batteria è una di quelle che avevo io, quindi deve essere anche quella prova, a vedere quanti volte sta dando, secondo me 9 non ce li ha, ne avrà 7, 6. Va bene, così è, se la vi. Sì, là, dammi un minuto che me ne porto su una sedia, che se no con questa sedietta da campeggio si sta male. Aspetta che mi porto una sedia. Eia, gappa. Vabbè, Antonio, faratati sì. Attento, Ronaldo. Allora, vedi, sta meglio adesso. Vabbè, sta meglio sì. Ho già meglio Ronaldo, ma deve essere guardando le partite, Giulio. Ronaldo! No, io mi stavo guardando la Sampdoria, stava vincendo 2-0, primo tempo. Da 2-2 era, ha vinto 2-1, che stanno annullando un gol che io questo VAR non lo capisco veramente. Ho controllato bene quando ho fatto l'immagine, la fermo, ma era fuori gioco. Se si è alzato 2 metri per segnare. Per essere più precisi mi sembra stanno facendo errori madornali. Sì, infatti. Ma che parola del bosso che c'è un coso della Juve a WhatsApp? Il berretto ufficiale che mi ha regalato Mario quando è andato a Torino per la Juventus, Ferrazzo d'Italia. Il berretto ufficiale mi leggi dietro, c'è scritto www.juventus.it o.com. E ho messo così, sapevo già va. E infatti lo sapevo che cosa va proprio. Ma me ne lo vuoi che pongo la data dando della Juventus. Io, mamma mia, come sto? Allora, come sto? Ne ho di roba da mettere, non ne ho di niente. Mi pare che da boh mi attacco un po' con un moto picco, quello piccolino tuo, mi faccio una traccetta qui in questa camera. Certo, non devi fare di tracce, che tracce devi fare? Aspetta, devo scendere un attimo giù, mi sta chiamando Daniele, aspetta. A me devo dire ti biazzi, va? Sì, mi biazzi. Ti biazzi? No, tu non sei su WhatsApp. Meno male. Aspetta un secondo che è scesa la potenza. La potenza riscende la faroce. No, è scesa la potenza, perché avevo scappato. paglione, praticamente. Adesso va bene. E allora già va bene. Adesso me lo faccio fuori questa parte, questo apparecchio, c'entro io o no? E cosa? No, non da 7. Quanto? 100 euro. 100 euro non te lo faccio manco vedere il mio. Anzi, te lo faccio vedere, però me lo tengo. Perché c'è, io sto vedendo il mio, non è che... Ognuno lo sa, se lo vuole modificare, se lo modifica. Che c'è? Questo qua solamente è il mio. Io guardo alla cosa, a questa, guardo solamente alla cosa. La vendita, se uno non vuole bene, se no pazienza. A un certo punto. 100 euro faccio fuori. Sì, fallo fuori. Io 100 euro non lo posso dare perché modificate. C'è dove c'è il tastino off, ecco, quello come lo tiri su si inserisce la scheda corta, è costato 350 euro, a parte devo venire nuda. Antonio, devi abbassare leggermente la radio, si sente un casino della Madonna. No, così è troppo, te lo dico io, appena più su vai. Ecco fatto, a posto. Certo, devi giocare il minimo a me, in camera da letto. 7 metri deve essere il 3009. Con questa cosa delta tu non lo senti, scommetti. No, non lo mettere. No, non per forza, te lo metto da ieri, è fantastica, ma l'ho provato anch'io, 87, visto che lo stavo provando. Dovevo tenere il tarne, lo dovevo tenere a 1,5, neanche 2. Mentre invece con questo col Cobra ce l'ho a 3. Capito? Spingono parecchio quei microfoni. Lascialo stare così che è perfetto, Antonio. Si sente in lontananza la TV, però non è fastidiosa. Sì, sì, già lo so, per quello. Me ne sono accorto. Lascialo, Gai, che anda bene. Anda bene benissimo. KK. Stamattina in radio c'era Giulio, mi ha fatto due chiappe, abbiamo parlato di sport e poi è entrato Gianni Rubloffetta, lo stesso, parlando un po' di sport, ci abbiamo passato la mattinata. Ok, meglio così. C'era capito, certo, mi ha chiamato a mezzogiorno stamattina. Ed è per me, figurati tu. Tutto a posto, sì, funzionano bene. Che io contento, adesso è tranquillo. C'era in macchina, c'era, sto usando quello, sto usando, anti furgone. Adesso chiama per se a Sassari, sei fuori, tu? No, me mi ha chiamato l'altro giorno, anzi ci siamo visti, è passato sotto casa. Capito? Ehi, sicuramente sarà in giro a consegnare il carbone. Non so, infatti ho detto fatti sentire ogni tanto. Vabbè, adesso vediamo di fargli avere l'antenna quando si illumina. Se li portate quella cinese. E quella sta cercando lui, infatti, bisogna procurare quella lì. Ma bisogna ordinaria, io te l'ho detto, non c'ho nick per fare gli ordini su eBay, non sono iscritto. Poi non c'ho neanche post eBay, cioè queste cose così, a me non mi interessa. Potrei ordinarla lo stesso e faccio un bonifico bancario, non è un problema, però non so dove ordinarla, capito? Voi siete esperti del PMR, tu e Marco, basta ordinarla, non ne ha problemi più un certo. Sì. Quante cose gli ho preso, appena gliel'ho data subito, di nero già la mano. Già lo so che fai con qua, adesso lo chiamo, 2 minuti. Poi vediamo. Gai Este e Gai Este, KK. Attento, Ronaldo. Giulio. E beh, Macaluggio. Finito è un cagadria, ho cagliutoci. apparato. No, 87. Sarano 87. Prova a incastrare, così vediamo un po' di differenza. Cosa hai detto? Prova a incastrare, così vediamo la differenza. Ciao Francesco. non si era mai sentito. Allora, telefono scarico, l'altro giorno non ti ho potuto rispondere, ma già ti chiamo e ci facciamo due chiacchiere. Gappa gappa. Beh, anch'io, quando metto le cuffie sento un microfono, poi sento l'altro, francese, c'è un abisso. Voi che stavate ascoltando, è chiaro che questo prevale, ma anche come tonalità è un'altra cosa, il tale più tre, non c'è niente da fare. Ciao Francesco, ben entrato, poi mi dici se tutto va bene, come stai, eccetera. Ti passo Gianni, vai già. E io ciao, una, mi hai sentito anche a te da ragazzo, ero un pezzo di un piscinico. Che fine avevi fatto? Yeah. bisogna farlo controllare, sicuramente così magari gli ampli di scaldare e poi ci hanno baciato tutto anche di potenza, capito? Andale, Claudio, allora cosa fa? Ripeti tutti. Cosa già? Ripeti tutti da Parigi. No, forse no, non lo so. Sono molto indeciso perché poi io pensavo che fossero un po'... Invece c'è solo il Typhoon 2 da controllare perché c'è un falso contatto. Praticamente devi dare un colpettino per accendersi, ma niente di che, poi funziona perfettamente. Adesso appena si liberano dell'aeroporto lo faccio controllare. Gli altri, come senti, sono tutti perfetti, funzionanti, ma nuovi. Nuovi. Soprattutto i due Colt che mi sono costati una barca di soldi, no, non... Singolarmente forse qualcuno lo do, ma il microfono non l'ho neanche uno, li ho tutti puliti, ordinati, mi ha più 4, gli avevo messo il cotone, gliel'ho ritolto, originale, perfetto. A capo c'è la sua originale, più 5 lo stesso, ne ho due più 5. Uno modificato che ho preso da Gigi e uno originale, però lascio stare. E più 3, gli ho rifatto le lamelle perché erano un pochino consumate, pulite, è tutto a posto, come vedi sta funzionando, quindi penso di non darli, dai. Vediamo. Quando ci porto tutto in campagna, e magari mi accorgo che stanno in mezzo ai piedi e non li uso, allora vuol dire li darò. Fino a quando stanno qua li lascio. Ma quindi ti trasferisci completamente? Eh sì, sto aspettando che terminino i lavori. Ma se lunedì c'è di nuovo l'altra bettomia, la nuova cal per finire l'altro pezzo del piazzale. L'illuminazione esterna è tutta finita, tutte le altre cose sono fatte. E poi insomma deciderò cosa fare. Non volevo lasciarla chiusa qua e niente. È in vendita, ma nessuno sa c'ha, di nano venne, però alla fine mi costringe a chiudere tutto e andarmene. Sicuramente da maggio, fine maggio, prima di giugno sino a settembre sono lì, su quello non ci piove. Mette la fitti qua. Affitti. Se non mi sono già la fitta per fare lavoro. Lavori sono già pagati, già, non ho bisogno di. No, di affittare. Non già affittare, non trasfacciarmi la casa. No. Ma cosa affitti? E i mobili dove li metto? Di là c'è tutto l'arredamento nuovo. I mobili rimangono qua, quindi. Una volta che si decide se viene qualcuno a comprarla, allora la svolto, se no la lascio stare così. Può capitare che serve in famiglia e ce l'ho. Se no la prendiamo ubriaca, e magari per affare. La prendiamo ubriaca, magari gente che gli serve, che li trasferiscono qua, per non portarsi i mobili qua, la compriamo ubriaca. E anche mia figlia Laria stava dicendo appunto a affittare la studente, ma gli strumenti sono distruggi d'ore già. Io 5 anni fa qua ci ho messo 10.000 euro per metterla tutta a posto, capito? Sono infissi nuovi, pavimenti nuovi, c'è tutto nuovo, bagno nuovo, tutto. Non ho speso i quattrini, non sono molti vissuti. Quindi non mi fido, non mi fido perché so da persone che l'hanno data, studenti che l'hanno restituita, a parte il fatto ci ha messo anni prima di buttarli fuori, e poi l'hanno restituita e faceva schifo, lascia perdere già. No, ma guarda, grazie a Dio non ne ho necessità, non ne ho nessun bisogno, rimane così, se decido di andarmene chiudo, me ne vado, basso il contrattore, me ne andrò. Se no vediamo insomma cosa fare, qualcosa già si farà, dai, da maggio sicuramente, dai primi di giugno già non ci sono più qua, mi porto l'A87 con l'MB, con l'Italia più 3, metto qualche antenna di quelle volanti e l'estate me la passo lì, giusto per fare due chiacchiere, quando c'è gente, e se no mi godo tutto quello che mi devo godere, gappa. parte, tenendo conto di cosa stai usando, quindi va benissimo, perfetta, ti sto ascoltando magnificamente bene, non ho manco colonnina esterna a questi baracchini, le colonnine sono perfette, l'altoparlante perfetti, non vanno benissimo, alla grande. Ok, no, mi stavo mettendo a posto nel frattempo. Sì, già, c'è la casa di campagna lì a Monteoro, abitabile al 200%, è una bifamiliare addirittura, quindi c'è mia figlia, perciò nessun problema. Però c'è il problema che questa è vendita già da un anno e più, e ancora qualcuno si è fatto avanti, ha provato a chiedere mutuo, a provare a rilanciare, a fare, però a me soldi, altrimenti rimane così. Dal momento in cui, come avete già, mi rompo le palle, chiudo la porta e me ne vado, non devo dare conto a nessuno. Però per il momento ancora, siccome sto finendo dei lavori abbastanza importanti, soprattutto belli e ordinati, quindi aspetto, però penso tra marzo e aprile di aver finito tutto, quindi pronto per andarmene d'estate, capito? Vai già, riprendi. Vedrai che ti metterai il traliccio, se metto il traliccio mi sputi in faccia, non metto manco antenne, te l'ho detto, non metto niente, non mi interessa, mi metto le V e le U, quindi due radio sicuramente, o forse una solo B-banda che faccia V e U base sempre, è un o il 430 o il 440 sicuramente, quello sì già, l'antenna come Dio comanda, sono 400 metri d'altezza, quindi però solo parte 27, il resto non mi interessa più niente già, come faccio attività, io ho una licenza da patente, sono tutti, me la sono presa per la detenzione delle radio, per detenere le radio, non di certo per fare radioamatore, ma non mi è mai interessato, chiaro che poi con gli amici, con le persone che sei insieme eccetera, ti frequenti, ti metti lì, fai qualche chiamata, un po' di attività qui e là, ma io ho i soldi li buttati sul tetto, perché sono buttati, infatti come si libera Andrea che sta finendo il lavoro, me l'ha già detto, viene, abbassiamo tutto, si stacca tutto, si puliscono, si conservano e le porto in campagna, capito già? Ti conosco, dici che metti una, poi ti piacerà, e quelle non sono cose che puoi comprare così e buttare via soldi, sono più di 3.000 euro sul tetto già, non è che i denari gaggono, li ho lavorati, non li voglio buttare più, basta così, ne ho anche troppi. Quelle devo recuperare il più in fretta possibile, perché poi magari se capita che le vendi le devi svendere perché sono già vecchie, invece adesso si dà una bella pulita, si tolgono, sono le scatole dell'ottore, scatole di controbox, c'è tutto sui mansarda qua, tutte le scatole, anche delle antenne, si smontano, me le smonta Andrea, le puliamo, le metto dentro la scatola e poi si vedrà già, e col tempo si vedrà, ma non siamo più ragazzini da stare appesi a balle e poi, vale, poi te l'ho detto, io voglio dormire, no? Ma giù c'è un traliccio che mi rimane in capo, sfascia la testa a qualcuno, c'è da fare scavo, c'è da fare pliti, c'è da fare comprare, non so se dici voglio comprare un traliccio per sistemare un traliccio, ma tu pensi che lo agganci così a terra e sei a posto, già, io non ho esperienza di quel genere, ma ho visto che cosa hanno fatto, i lavori che hanno fatto, e lascia perdere. Il mio non è un traliccio, il mio è un sistema telescopico che era quello di Fabrizio, è un sistema eccezionale, no? Eccezionale a dire poco, perché l'ha testato lui, la gabbia l'ha fatta lui, in acciaio inossidabile, quel centro di spinta l'ha messo lui, non li ho buttati i soldi, quello che ho comprato a Fabrizio è veramente un bel sistema. Sono tranquillissimo perché a parete, piazzato da lui, zancato da lui, le staffe a muro fatte da lui, è già Rosè, Cantepignolo, quindi non ho mai avuto un problema, e 20 ne hanno fatto tanti. Però il traliccio è un'altra cosa già, il traliccio deve darle delle, perché se sbagli a montarlo sono cacchi amari. Lo so, ci vuole un pochino di cemento, ci vuole una mullorata, già lo so qua. È successo a me, capo, che l'hanno fatto tutto più di qua, che ne ha parlato tutto con lei. Ma appunto, quindi bene, la gente che ha esperienza, che ha tanti anni di esperienza, succede, un po' scavatore, quanto per il momento, io non devo, già, non funziona così, lì c'è la piscina, c'è il piazzale, sta finendo, mi bongo ai fascià, papponino da lì c'è in mezzo ai beti, ma fai, lascia vedere, va bene così, quello che ho dato, dato, quello che ho fatto, quello che non ho fatto, mi auguro lo facciano gli altri, io già mi sono divertito, e continuo a divertirmi così come faccio sempre. Spazio a chi ha veramente voglia, capacità e soprattutto ci vuole esperienza per poter fare il radioamatore a quei livelli. Non è uno dice quello è il radioamatore dove? Nella carta, come me, ma per fare il radioamatore tu lo sai che ci vuole esperienza e ci vogliono tante cose. Io l'esperienza me la sono fatta, me la stavo facendo, ma non mi interessa. Le antenne ce le ho, non sono indietro nessuno, amplificatore, c'ho tutto. Però non mi interessa, non mi piace, quindi non me la fotti nulla. Vai Francesco Uranio, come sta Osilo? Tutto a posto? Già è un giorno che non ci passo. Sinceramente non me ne ricordo che cosa. cosa era successo, avevo sentito qualcosa ma non mi ricordo se era l'antenna o che cos'è. Allora, quindi io devo fare una cosa qua, allora questa è la media potenza, mettiamo il love. Bene, ti durano e vanno bene. se li fai a culo di scimmia, i risultati sono che quando c'è vento è così. Ho detto, Francè, devo fare una prova, quanto è il segnale così con 8 watt, quanto è il segnale lì nella tua radio che è lo smitter grande? Ok, 8, allora adesso tiro sulla potenza sempre della radio, e questa c'ha due potenze, questa è la potenza alta, aspetta che scendo, sono in scala, questa è la potenza alta, Francè, ha cambiato qualcosa? Buonasera a tutti, ciao Gianni, ciao Francesco, ciao Claudio, Marco da questa parte. Stavo per mangiare qua e ho provato a attenuare Claudio, no? In modo da vedere, diciamo che non è pulita quanto la bassa potenza. Non è proprio una saturazione, però la radio appena si sporca. Proprio quel pizzico mi... È più forte, Marco, non è forte, più forte, ma... ma meno pulita. Cioè, attenuando me ne accorgo, è meno pulita. Poi in tutte le radio sai che ricevono in modo un po' diverso, no? Poi per dare un controllo perfetto dovrei darlo in cuffie, no? Però le cuffie, mi pare che non ho l'adattatore da stereo a mono e quindi me lo devo procurare. Detto ciò, dai, io sto ascoltando, sto per mangiare. Rilancio Francesco, che comunque un po' se n'era accorto di questa leggera radio non perfettamente pulita come quando è liscio, capito? Vai Francesco. Regola o la potenza oppure anche il farlo ascolta può essere. Però passa più di tanto già, lo metto a zero e se vado a salire il microfono innesca. Bisognerebbe riaprire la radio, togliere direttamente il parlascolta da dentro, però non lo faccio perché quella è modificata, lascio stare così. Preferisco tenere il microfono più basso, capito? Aspetta un attimo, vai, riprendi con Francesco che cambio radio. Sì, allora, Francesco, qui. Comunque non era stata la parola di Claudio, potrebbe essere più alta, magari la portavo appena appena come era più alta, ma non salta. Salta non ha qualcosa. Comunque, già va bene, dai, io ho fatto un problema. Francesco, tu che apparecchio stai usando? Thank you. pesceria. Tant'è molto che fanno partire, magari c'è un filamento, magari staccato e tocca con l'altro spinocchio. Sono rientrato. Avvicinare l'orecchio al baracchino per notare un po' la radio sporca, non è assolutamente un problema, è capibilissima. Certo, se ci attacco l'orecchio all'altoparlante mi accorgo che da 8 watt a più watt c'è una differenza seppur minima, tutto lì minima, non ti fare paranoie, mi ci mancherebbe. Paranoie? Microfono normale Gianni, aspetta. Invece oggi chi è sublime di radio, anzi spesso Gianni esce così, effetto presenza la tua radio già, non so la configurazione attuale, ma proprio non ha timbriche strane, metalliche, cuffie, è effetto presenza, è il migliore accoppiamento che tu hai radio microfono in questo momento, non so cosa sia. Questa è la configurazione che non si batte, non ci sono, cioè la voce è come è di un verticale, a parte l'effetto eco leggero, pari pari, è un bijou. E qualcuno ha fatto capolino sotto, fatelo venire avanti che sto mangiando, dai. Non so chi è. Oh già, questo è il microfono normale. Tieni conto che il micchigine è a metà, adesso lo metto, eccolo qua. Adesso è tutto il micchigine al massimo. Com'è la modulazione? Una roba, questa è quella forte, è accettabilissima. Non ho problema questo. Molto meglio che con la piccata. Hai ragione Massimiliano, allora. Mamma mia, come sto? Vabbè, dai, allora lasciamo stare così. Questo è il microfono normale, va bene. Allora, così il micchigine al massimo e così invece a metà. Allora, lasciamo stare al massimo e praticamente è come che stia usando un microfono preamplificato. Questo per capire che praticamente c'è la scheda Colt, che è questa. Allora lasciamo stare questo, dai. Togliamo il codice. Colt, i fucili e le pistole. Ok, Massimiliano, se sei tu, vieni avanti, buonasera, cambio. Non era Massimiliano. Adesso io rifaccio il passaggio nuovamente quello che ho fatto prima, ok? Per vedere se la modulazione cambia. Allora, questo è il passaggio con... Aspetta, che devo mettere di scala più alta. Questo è il passaggio normale, 1, 2, 3, 4. Questo è il passaggio con il... la potenza più alta. Gianni. Quasi in un solo anotto. Guerriera. Sta sarebbe la stessa, appena tu passa, ma appena lo stesso, ma poco lui non ha sa. Questo mi ha detto Massimiliano che praticamente aumenta anche la modulazione quando do la potenza alta. Effettivamente mi sembra proprio così. Sì, l'aumenta. Si sente quella più spinta. Questa qui è radio. Questo è il 3009 Superstar. Bene, va benissimo. Anche questo è Colt. Poi c'ho il Typhoon 2 Colt e l'87 Colt. Capito, però questa è micidiale. Questa è quella che esce più forte. Ah, quella che esce più forte è l'87. 87 è la paura. Quella è micidiale. Ma anche il tale, tutte e tre sono stati fatti, tutte e tre fuori, sempre tramite le stesse persone, e funzionano molto bene. Funzionano benissimo, non bene, gatta gatta. La mia l'ha fatta l'Ubacone. E la tua era come quella mia, anche la mia era fatta a Piero Marconi. Le radio che compri a Gigi sono poi fatte lì. Capito, poi ho lavorato a Giampaolo Silvestro e Giampaolo ha lavorato a Gianni Dischetto e ce l'ha ancora. Ed è quella la 48 che avevo io. Poi io ne ho un altro di alla 48 anche. Lascia perdere, meglio nulla. Ok, le vostre tutte di là. Va bene, allora il tono è più tre, lo rimetto a posto e lascio il microfono normale qua. Va bene? Lì nelle alture di Ugilo, come ti sto arrivando? L'aumenta. A certe volte personalmente preferisco le radio un po' più pacate, ma è che normale, questione di gusti, dai. E non ho finito di mangiare tanto, dai, riprende voi. Oh, mica questo è il microfono normale, amico, già, questo è il microfono suo originale. Ma adesso in posizione alta pompa di più. Pompa di più, sali di 2 punti, esce abbondanti, ma abbondanti, non 2 dB, 2 punti esce, tipo attenuato da quasi 5 a 7 pieno. Vabbè, non è il caso già, era giusto per fare una prova, mettiamo avanti scala 20, lasciamo stare così. Ok, va bene che va bene, ottimo per la truppa e trick e ballacchi, vabbè. Allora mi devo adeguare, cambi... Adeguati, cosa vuoi che faccia io? Io poco da adeguare qua, tiro su un pulsante e la cosa è bella. Com'è lì a Ugilo la differenza tra me e Gianni o Uranio, cambio? Uranio. dammi un controllo a vedere come arrivo lì in quella zona, dai, vediamo un pochettino. Come arrivo, vabbè, Claudio ce l'hai più vicino, è normale, come sta arrivando lì? Non c'è la coda dell'Ecco, cambio... Non è cattedrale. Avagava! Belle cose, ui, come sto? Marco, da te come sono? Perché un po' che non l'accendo? Sì, 9.25, ad esempio Claudio 9.30, sempre cercando di interpretare lo smitter, no? Tu sei pochi dB in meno in questo passaggio. Vai. Sì, vabbè. Prova Claudio. Sì, va bene. Ho costruito io. Da due microfoni ne ho fatto uno. Quindi è un microfono custom quello. E si può osare chiedere da cosa l'hai ottenuto quel mic? Ora, questo microfono l'ho fatto da un interno CTE e l'ho messo su un microfono Midland. Perché sembra così, sembrano uguali, però non sono uguali. L'interno della CTE è diverso, capito? La capsula è CTE. I CTE pochi ne conosco, non mi ricordo i CTE cosa commercializzava. Caspita. E poi io ben pochi ne ho avuti. Io ricordo solo che l'MB più 5 di allora, non mi ricordo se era comprato nuovo, presumo di sì, però usciva molto più male di quello di oggi. Cioè, quello di oggi va ancora bene. Quello che ho avuto tanti ma tanti anni fa era brutto di modulazione, molto più brutto. Non che sia brutto il nuovo, avete capito me. Quindi se era usato l'hanno manomesso, se era nuovo forse avevano capsule più scadenti 30 anni fa, boh. Oh Marco, le capsule vabbè se non le vendono più, ma costavano mi pare 20 euro i microfoni, quelli della CTE che si usavano per questi apparati qua, capito? Non costavano qui mica tanto. Solo che io ce l'avevo, avevo un filo interrotto in quell'apparecchio, in quello lì, allora ho preso la capsula e l'ho trasferita in questo, capito? E ho fatto tutto l'attacco io e via. E andava bene. Funziona bene, mi hanno detto che è abbastanza chiara la radio. Di solito si modula così di fianco, non si modula mai davanti con questi apparecchi qua. Io ho il vizio di parlare davanti alla capsula e sputazzarla. Per esempio, così parlo frontale, no? Proprio sono un dito dal mic, così sono di lato, attaccato al mic ma di lato. Se cambia, non lo so. Oh boh, questi qua, questi erano apparati modificati, si parla così di fianco, capito? Perché qua così sto parlando davanti e così invece di fianco, dimmi come va meglio. Beh, di fianco è meglio perché soprattutto quando fai la P, no, si sente il ciocco sulla capsula, capito? Invece di lato è appena più pulita. Anche io lo sto tenendo di fianco, solo che mi viene un male tenerlo di fianco. Diciamo che non sono abituato, dai. Va bene, fate girare, dai, io devo tentare di finire di mangiare qua. E io, buon pranzo. Avanti, qua. E io, va bene, va bene. Ok, cosa c'è attaccato? No, aspetta che stacchiamo. Don Claudio, è il primo apparecchio che ha avuto Gigi Vulcano, il primo. Infatti, detto, non lo venderà nessuno, perché ci tengo. E ti ha detto una cazzata Gigi Vulcano, perché il primo l'aveva dato a me. Il primo era quello che aveva fatto per lui, che c'era una camion, poi ce ne ha fatto un altro e sicuramente è quello, se ricorda male. si ricorda male, il primo l'ha regalato a me. Il primo, se ben ti ricordi. Lui a me mi ha detto che era il primo che ha avuto in camion questo qua. Poi, non lo so se a tutti dice così. Ma se tu ti ricordi, il primo che io ho preso, l'avevo preso, mi pare eravamo assieme. L'avevo preso io la Gigi e poi lui se ne aveva fatto fare un altro, capito? Forse quello lì è il secondo, forse quello è il secondo, tutti e due la Piero Lumacone, attenzione, originali, perfetti, uguali, gemelli. Però io mi ricordo che il primo che lui aveva tolto dal camion vecchio, prima era del camion nuovo, l'aveva dato a me. E quello lì sicuramente è il secondo, perché lui uno mi pare che ancora ce l'ha, quindi... Qua è quello che c'è Lucchitti sopra, poi c'è la bandiera americana davanti, tutti i così, i potenziometri illuminati, poi quando premi la portata si fa rosso, il blu diventa rosso, tutto così ce l'hai. Quello mio non era così, infatti lui l'aveva data a me il primo che ha fatto, e poi ce l'ha fatto così, avevo anch'io la bandiera americana. Però i pomelli a me non mi piace l'albero di Natale, quindi a me me l'ha regalato originale, tutto illuminato, in arancione, mi pare che era molto bello, e poi ha volato a Giampaolo Silvestro. E lui ce ne aveva fatto un altro tutto ultra modificato, ed è quello, ho ragione io, il secondo. Lui è sempre all'ascolto, ma non entra mai per confermare, la mazza che te ne vai a Gigi Vulcano. Non è l'albero di Natale, Claudio, è bellissimo di notte, specialmente in macchina, tutto blu, capito? Tutto blu, solo quando parli che diventa rosso. Rimane solo lo smitter blu e il numero dei canali blu, poi tutto il resto diventa rosso. Sì, anche il mio era tutto blu, anche il mio era tutto blu, però non faceva nessun cambio, rimaneva blu, a me piaceva così. L'avevo dato a Giampaolo. Se l'avevo messo nel motocarro, poverino, se ne è manco voluto. E poi l'avevo venduto a Gianni Dischetto, infatti c'era Gianni Dischetto quello. E funzionava veramente molto molto bene. Questi sono un'altra cosa, 87, gli altri sono un'altra cosa. Però il 48 va molto bene. Io non lo uso a casa perché se Antonello dovesse parlare un altro canale mi si spegne la radio. Con tutto che Gigi aveva messo una modifica per gli splatter eccetera, ma la vicinanza è troppa, c'ho troppo battimento e quindi non uso mai. Tu figurati che con l'87 io chiunque si sposti, neanche se ti metti sotto casa ti sento, è perfetto, è eccezionale, è un barattino che si può usare in città, ma la 48 non si può usare, cazzo c'ho quello normale già, un giorno lo attacco e te ci lo attacco, un'altra la scatola mi nuovo quello che c'è in concessione. Lo attacco, fate della multa oggi, tu guarda, maracchino rovinato perché non lo uso mai. A un certo punto sale il QRM, giro canale c'era Antonella nel canale 20, allucinante, proprio molto completamente, non si intendia la mazza. Adesso lo fa anche a me qua. Poi abbasso un tasto che lui aveva fatto un filtro, abbasso un tasto e l'attenua un po', però no, proprio diciamo annullarti il segnale no, però sento gli splatter, annullartelo non te lo fa più, l'altro normale me lo facevo, ma questo no, annullarti proprio il segnale no, sento gli splatter, però abbassando un tasto li attenuo, là. Già, magari sentissi gli splatter. Questo si suona la radio, proprio diventa molto completamente, capito? Diventa molto la 48. Questo è una canonata, io a volte sono qua nel 10, vedo che c'è questo anche nel 20 e siamo tutti, insomma, non vicini vicini, ma comunque nel rione non sento assolutamente niente. Va bene, è un baracchino che si può usare in città, altrimenti non l'avrei usato, tutto qua. Va bene, quindi microfono normale, confermato, lasciamo così, meglio, almeno non ci buca tutto a mezzo di bere perché i microfoni ho anche tanti. Avanti, Francesco Uranio, cambio. Thank you. chiamato. Bucci, Bucci. Io l'avevo guardato per ormai. Usai. E quello quando andate a cercarlo non c'era mai. Amico di Antonello Pomponio. Era l'onfio, usai, eh. Va la 40 per l'orba e la rifilando chi su che... Avanti Massimiliano, buonasera. Positivo, non ho fatto molto ascolto e non so chi ci sia. Ho sentito a te, poi a chi ho sentito, Francesco, e poi non so chi c'è ancora il ruolo. Marco Condor. Su Gollu, cos'è? Marco Condor. Ah, c'è Marco, va bene, ciao Marco, buonasera. Ehi, hey, Condor, Conno, Gunno, è lo stesso. Condom, via. Usai, era, cioè io ci ho comprato roba, era già difettata all'inizio, dovesse rabbrigare, c'è piccoli difetti che magari non ti impedivano di usare qualcosa, tipo un LED non funzionante, su un televisorino LCD di quelle a batterie di allora, a colori, c'era una riga di pixel spenta. Una volta Grassi mi aveva detto, gli avevo portato un Intec in assistenza, dicevo, non avrei comprato l'usai e la roba sua non gliela assisto perché non so cosa c'è dietro. A Pomponi era bruciato di brutto, insomma, non molto affidabile come persona, dai. Affidabile, affidabile vedo era, per carità, lasciamo perdere. Ciao Massimiliano, buonasera, ben ascoltato. Guarda Francesco, io l'ala 48 Plus l'ho avuto, anzi ne avevamo comprato due con Franco Califfo, tremo una parte della mondezza perché sono delle radio che veramente non vanno assolutamente bene, non ho capito il perché, assolutamente, proprio manca paragone con l'ala 48, sia il primo modello che il secondo modello, io c'ho il primo modello che tutti me lo corteggiano, ve lo vogliono per fare la modifica, ma non l'ho mai dato. È nuovo, nuovo e me lo tengo, capito? Però c'è un abisso, c'è. Proprio un abisso vero e proprio. Vabbè. Avanti, Massimiliano, prendi tu e vai per Gianni, per Francesco Uranio. Claudio, non stai uscendo? Non sto uscendo. Il colpo ti si è abbassato il segnale. Abbassato il segnale? Non sto toccando niente. Ulla, ulla, ulla, ulla. Oh, non so se da me, Non lo so. Ciao Francesco. Riprimi. sì, positivo, positivo, va bene, va bene, là. Ok, no, no, claro, niente là, niente da fare, ok. Vai, che c'era, ma diciamo, io poco fa, sì, più di mezz'ora fa forse, ho sentito che c'era anche Giulio, può essere? No, Giulio non c'era. Allora no, allora mi sono sbagliato io, va. Ok, vai già. No, non ti sei sbagliato, no, non ti sei sbagliato, no, sto guardando la Fiorentina, vai. Claudio, 3-1, sarà la Fiorentina, al momento 3-1 per l'Atalanta. Avete parlato in due, chi è l'altro? Giulio? Ok, sì, ero io, ha ragione Massimiliano, ero io, ti ho fatto un piccolo intervento poc'anzi, ma probabilmente sono la modulazione e non ci siamo sentiti. Stavo dicendo, Claudio, l'Atalanta sta vincendo 3-1 con la Fiorentina, continuo a guardare la partita, dai, riprendete e continuo io a vedere la partita. Minchia papà, ciao Giulio, me io dopo spiego tutto, ma sono passato con K, mi sono già stufato col baracchino, a tenere il microfono in mano, non mi piace. Va bene, porca miseria, vabbè, Atalanta è sempre un nome, una garanzia, ok dai. A chi tocca? Uranio, stavi parlando, Marco riprendi? Ehi, vabbè, non ho altro da dire, dai, di quel venditore, però, boh. Riprendete voi. Ecco. C'è stato un brecco e lo facciamo venire avanti, avanti. Buonasera a tutti, Gianni, sempre dalla stazione FS, buonasera a tutti in ruota. Niente, per Francesco lo sento proprio molto basso, volevo sapere da dove stava modulando. Oscillo. Adesso sono riuscito a copiarti. Comunque niente, salutoni Francesco, Gianni qua da Centro Storico, Sassari. Ben sentito, ho visto che insomma c'è anche Marcolino, Claudio, Gianni e Massimiliano. Va bene, ok. Niente dai, faccio girare, avanti Claudio. Un secondo solo, sto mandando un messaggio, arrivo Gianni, ben sentito, cordialità anche a te, dai. Doppio run da questa parte. Ehi, ciao Giulio, ciao Gianni, bene, ben affacciati, dai. Ciao Giulio anche a te, dai. Sì, vediate, ti ho chiesto poco fa come sta girando questo apparato, che era un po' di tempo che non l'attaccavo, poi ci siamo persi, dai. Secondo te come sta andando? Tutti morti. C'è gente anche sul 20, perché li sento, con questo apparato li sento, però basta che alzi il filtro, non li sento più. No, già, scusa, stavo mettendo a posto, ho tolto il microfono, tre cose, l'ho rimesso dentro la scatola, le prove le ho fatte io. Allora, processore inserito, questo è a posto, ok, dai, modulo con questa, quella la teniamo giusto così per farla girare ogni tanto, va bene. Cosa stavi dicendo, come sta girando? Va bene, già. Va benissimo, se sta tutto così. Ma no, è perché era da tanto, quando ho preso la macchina nuova non l'ho più usato, dai. Ogni tanto lo accendo, ma senza usarlo. Boh, mi sta venendo lo schifo di pulire la stella in macchina, se entra gente già me la metto. Pare che esistono le staffe già, senza bucare centro cappotta. No, non ne metto, non ne buco, no Massimiliano, poi no, metto una magnetica, ci metto uno straccio sotto per non graffiare la cappotta. Ma ci sono quelle calamite belle, quelle a tre ventose, che tengono fino a 150 km orari, ci sono, belle. Quando non ti sei, vieni in attacco e la puoi mettere la macchina. Infatti, ma c'ho anche per portatilini quello Intec, quello che c'ha l'antennino, ma c'è quanto spalla con l'antennino, da Pattamona mi sentivano tranquillamente a Sassari. È piccolino, però non è che regga molto, la calamita è piccola. Ma il kit emergenza? Quel kit lì, quello che c'ha la bandierina, tutto qua. Eia. Io, dunque, io in macchina, sai che antenna ho? Ho la base Midland da 12 e l'antenna è 1,60 fino a 110, tanto con le strade percorsi che faccio io, più di tanto non puoi correre, tutto sbocchi laterali. 110 non fa una piega, antenna a stilo d'acciaio, no, in alluminio. Comunque tutte le ditte raccomandano con le basi singole di non andare mai oltre i 120-130, cioè di stare sotto i 130 con la base singola. Con la tripla, cioè la forza tripla, so che, caspita, magari non riesci a staccarla nemmeno. Caspita, tre magneti devono fare una forza non indifferente. Una volta ne avevo preso una di quelle grandi base magnetiche della Midland, sono sceso la discesa dei marini, non so a quanto ero, non me lo ricordo, poi ho detto e l'ho vista nel vetro di dietro l'antenna. Quelle grandi della Sirio, come l'hai fatta a comprare tu Marco? Quelle sono buone. Quella piatta piatta da 16? Esatto, si conferma, quella è eccezionale. Allora, sì, io quando ascoltavo radioamatori, quando c'erano radioamatori da ascoltare, ho attaccato la come si chiama? La SG7009, no? Non è Diamond, è fasulla, ma funziona allo stesso modo. La SG7009, che è un'antenna VU, ma è grossa, grossa, non è un normale stilo d'acciaio, è proprio grossa, 5 mm, pesante, un'antenna molto più pesante di un'antenna veicolare da macchina, di tipo medio, dai. E lo stesso, io poi più di 110 non mi fido ad andare con quella macchina, se no salta la cinghia a distribuzione. Fino a 110 lo stesso non si stacca, non c'è pericolo. E poi avevo provato anche con la CR8009, sempre Simil Diamond, ancora più grossa, 1,30 m, ma ancora più pesante, non si stacca. Naturalmente la Sirio raccomanda, per motivi di sicurezza, di criterio, no, di non andare oltre i 130, che la base magnetica singola non è che può far miracoli, in autostrada già, non lo so, e se poi succede un incidente, come va a finire poi? Io ho la 5000, allora non si può mettere sulla magnetica. Allora, io ho visto gente che ha messo la Sirio Turbo 5000 o Performer 5000 sulla base, l'ho vista, poi non so che velocità tenga o Massimiliano. Io, vabbè, non ce l'ho. In Polonia me ne ho visto un bel di 5000 con la base magnetica. Fino a quanto l'hai tirata tu la macchina? No, io non la tiro perché io l'ho piazzata sull'escavatore quella, capito? Però per quella lì la base magnetica una singola non potrebbe andare molto bene, ecco, su una vettura. Secondo me ci vuole proprio quelle, sai, le classiche magnetiche, quelle a tre ventose, e poi al centro metti l'antenna. Allora sei sicuro, perché c'ho amici che ce l'hanno anche su un Audi, capito? Messa dietro, c'ha le tre ventose, tiene fino a 160 km orari. Tre ventose sì, poi ne fanno della Prox, ne fanno di varie marche, forse Marcucci, tipo Lafayette, cambia appena appena l'attacco, cioè magari in uno c'è una piccola ghiera, vabbè, comunque, poi già se hai paura di graffiare, c'era un sito che forse vendeva anche le cuffiette di ricambio, no? Per la base magnetica, per non graffiare assolutamente. Naturalmente quando la metti deve essere la cappotta, il punto di contatto, assolutamente pulito, perché se c'è un granello di polvere già come preme tende a fare micrografi. Deve essere bella pulita, al limite ti prendi un pezzo di lattice tondo da un guanto, non so, lo fai tondo, lo tagli il taglierino e lo metti aggiuntivo. spero che sia sottile naturalmente, se no poi viene meno la presa della calamizza. Cioè già mettere uno straccio, a meno che non sia proprio sottile sottile. Metto uno straccio per dire uno spessore da tenere sotto. Ma io ho la Turbo 2001 ancora. Vabbè, gli ho lasciato l'attacco, quando ho venduto la macchina gli ho lasciato l'attacco per non lasciarlo in buco, perché sennò me l'avrei preso. Ma quello si può sempre buscare. C'ho anche la PLC 800 e c'ha lo stesso attacco, quindi potrei mettere l'attacco della PLC 800 con la Turbo 2001. Ma vendono le staffe, Gianni, vendono le staffe senza la calamizza, capito? Che in poche parole passa nella fessura, come tu per esempio chiudi il cofano, hai visto il cofano ha le due cerniere, stacchi un bullone e esce da lì, capito? Senza staffa, senza calamita, senza lutta. Ah, ho capito. E rendono? La massa l'ha fatta tutta la carrozzeria. E che cosa sono queste staffe? Lamiera oppure in acciaio? In acciaio sono. Bisogna vedere se lo spessore poi fa chiudere il cofano. Ho già. Fatta apposta già. Guarda. Per esempio c'è la Proxel MB TRV, TRV doppia mi pare. Io quella che ho messo in macchina per tutti i tipi di antenna, VU, HF, baracchino, addirittura è orientabile in tre direzioni, cioè la puoi usare da cofano, da baule e da portiera. Basta che ci sia certo quei pochi millimetri tanto da farci passare, da agganciare la staffa. La puoi orientare in tutti i modi, quindi la puoi mettere su un cofano orizzontale, sulla portiera che è verticale, quella è molto versatile. Non so se l'hai mai vista di lato la macchina, nell'angolo alto destro della portiera. L'antenna grondina ho visto, quelle che si usavano prima, io già ce l'ho avuta l'antenna grondina. Di tempo fa c'era la ventosa che si attaccava sulla cappotta e la grondina praticamente che vabbè, sai come erano fatte prima le macchine, che ci avevano quella specie di grondina dove passava l'acqua, si attaccavano lì. Poi c'erano sia ventosa e sia senza ventosa. Ah, poi una cosa, tutte queste antenne da baule, da cofano, da portiera, no? Tipo Proxel, ma ci sono tutte le marche. Per esempio la mia ti dà una piastrina di alluminio da interporre tra quelle viti Allen che tu stringi per fissare la base, no? Però in quel caso, siccome la vite non buca la vernice, non fa massa, no? Io la piastrina l'ho messa per quanto sia vecchia la macchina, per non sciupare quel poco di vernice che rimane, no? Per fare la massa per l'antenna HF che ho provato una volta, ho fatto una massa riportata che qualcuno si dice che non andrebbe fatta. Cioè, ho fatto partire un cavo dalla staffa, dal bullone della staffa, e l'ho portato a un bullone della portiera. Massa effettiva e controllata col tester. Ma infatti io avevo tarato l'antenna HF, come si chiama? La Pro X1, no? A 7000, che frequenza era? 7100, insomma 100 kHz di copertura me li dava, 50 da una parte e 50 dall'altra. Arriva via 1,1 nel 2 di stazionari mi con 100 watt. Però ricordate, massa riportata, poi questa piastrina tu la puoi togliere, naturalmente però poi le viti vanno a scalfire la, già hai capito già, la carrozzeria, la vernice per fare massa sul metallo proprio che c'è sotto. Però se tu non la vuoi rovinare, al limite fai una massa riportata, poi non lo so già. Comunque io ho fatto una prova, per farla breve. La stessa antenna Midland messa a centro cappotta con la base magnetica, lì al viale delle coppiette, lì a San Francesco. Ho provato con Sandro il produttore, stessa antenna, stessa posizione. Sulla base magnetica, che ne so, un Santiago ipotetico, Santiago 7, messa su quella staffa laterale con la massa effettiva, mi era calata di un Santiago e mezzo, quindi stranamente rendeva di più sul centro cappotta con la base magnetica, pur non avendo una massa vera e propria mia fisica. Vabbè, ma c'ha la base riflettente, è normale, non è stranamente, si sa, è risaputo che a centro cappotta va sempre meglio. E poi anche davanti, io l'ho avuta anche davanti, dove c'è, bastava smontare la plafoniera della macchina e la piazzavi davanti lì. L'ultima volta che l'ho messa è lì, perché poi, se ti ricordi, l'avevo sbarrato quella centro cappotta perché ho toccato un albero in via Lumberto parcheggiando, ha toccato un albero, l'antenna me l'ha piegata ed era tutta brasica attorno e si è sfondata la cappotta, che ho dovuto mettere un tappo di quelli per i lavandini quando cambiano i rubinetti. Uno di quei tappini poi l'ho coperto di silicone, tutto quanto, sembrava normale. E l'ho messa davanti, proprio dove c'è la plafoniera lì, e rendeva lo stesso. Claudio, ci sei? Sì, sì, continuate, mi sto preparando per portare il calcio qua. No, per dire, no. Sempre con l'antenna approx del proiezione, no? Serata con un artificio a... così, per livello accademico, 6585, no? C'era bianco, fischio, questo da dove era Sandro, no? Riprende questo, avanti il fischio, cioè troppo facile, cosa vuoi fare, pirateria, è troppo facile, premi la portante e ti rispondono, che gusto c'è? Poi dipende sempre dalla gente che c'è, Marco, dipende, magari non le metto nemmeno. Perché tanto adesso non si può usare più il movimento, se ti trovo a dirimigliare la battente come fanno per il telefonino, la stessa cosa. Quindi il movimento non lo puoi usare, ma perché io lo usavo col microfono amplificato sopra sedile destro, lo mettevo il microfono e quando premevo la portante manco si vedeva perché il microfono era sul sedile, capito? Non lo alzavo. Vabbè, anche prima era vietato, c'è la multa bene o male te la beccavi, adesso si stanno ingrandendo le cose, però vedi, io al telefono io quando sono alla guida non parlo mai al telefono, non rispondo proprio, casomai mi fermo e rispondo, però il baracchino l'ho sempre usato col PTT, basta tenere d'occhio la strada e gli specchietti a tutti i dinni. Ma se no quando le va di ex ti fermi? Ah, per i DX da fermo, sì, rigorosamente da fermo, punto elevato, punto libero, viene meglio, dà segnale più stabile, non c'è paragone. Dai, riprendete un attimino che vado a bere. Kappa kappa, ma c'è Francesco da usilo in parcheggio, Francesco. Giulio, tu sì. Ciao, ciao, guardi. Sento più nessuno che c'ho degli splatter. Saluto tutti cordialmente, dai, buona serata a tutti. Aspetta. Eia. Eh già, va bene, da, anch'io ce li ho, ma la si la piglia in culo. A me è proprio, capito, ce l'ho vicino, mi sta dando proprio mattana, non si può modulare, dai, qua. Ci sentiamo, poi devo portare giù il cane, Massimiliano, ne approfitto, dai, che se non aggiunga una barba Mattesi, dai. Ci sentiamo, alle prossime. Ciao già, li prendo io, dai ragazzi, anch'io vi saluto e chiudo, mi sistemo il cane anch'io, poi vado a vedermi la partita. Ok, un saluto a tutti, grazie alle due chiacchiere, ci sentiamo, ciao Francesco Uranio, ciao Marco, Gianni, e Massimiliano, Giulio che è all'ascolto, se ci fosse anche Gianni Ruboetta, Rubrofetta. Ciao a tutti comunque circolarmente, dai, se coincide a domani, se Dio vuole. Ciao a tutti. Ciao Cla, ciao Gianni, se metti il 48 già non fa vedi, il 48 è un casino, capito? Non ce la fai a modulare col 48, capito? Cioè ti sblattano anche se sono qua in zona, capito? Tutto qua, spera, passo per questo, no. Voilà, eccolo qua. E niente, dai, va bene, allora ti saluto Gianni, Claudio, avanti Marco. Io, ciao Gianni. Ciao Claudio, dai, buona passeggiata col cane, buona partita e tutto, buona cena. E sentiamo, sì, Gianni, mi ho dimenticato un po' in parcheggio. E tu Gianni, hai mai avuto in macchina di radio? Ah no, vabbè, tu andavi in moto sempre, o ce l'hai avuta la macchina? No, niente, adesso, cioè, un paio anni fa l'ho presa la macchina per questione di, per esigenze lavorative, però niente apparati, cioè, questo che c'ho, te l'ho detto, l'ho recuperato da un camper, e quindi va bene così. No, più, volevo chiedere una cosa a Gianni, ma ha chiuso, volevo sapere che radio stava usando, perché rispetto agli altri giorni lo sentivo meglio, poi non lo so, vabbè, adesso è sparito, magari me lo dirà un altro momento. Non so se stavo usando un Alan 48, boh. Ma lui prima mi aveva detto Galaxy, il Galaxy, non ho capito quale, forse il Saturn, boh. No, stavo usando il 48. Ah, l'ha cambiato, perché all'inizio, serata poi, sono entrato tardi, all'inizio aveva il Galaxy, e poi non mi ero accorto che l'aveva cambiato, via. No, col 48, è come molti Model 3, è una cosa terrificante, quando era pieno di utenti, proprio un battimento zero, è una cosa... Invece il 3009 già non c'è paragone rispetto Pluto, tutti quelli là, quella famiglia di apparecchi con l'IPT 3006, già era molto molto più selettivo, proprio quasi abissale la differenza. Non dico come un apparecchio amatoriale, però molto più selettivo. E io voglia, no, è un macello, no, col 48 se c'è gente vicino che attacca così lineari e palle varie, no. Cioè, oltre che a parlare già palle, ma non ascolti, capito? Perché il 48 fa proprio abbattimento zero, ti fanno, capito? Non riesci a ascoltare il corrispondente, tutto qua. E lo stesso con gli Intec, tipo il 548CX, che sembrava, mi pare che dentro, non so se sia simile pure al 48 Midland. Quello me l'ho disfatto mesi fa l'avevo dato, una cifra simbolica, tanto di più non vale, funzionante, tutto quello originale, a parte la schedina 120 canali, ma che vendeva proprio la Intec, no? Ti dava già anche il coperchio del baracchino, era già preformato per mettere lo spazietto del selettore, banda media, alta e bassa. Però baracchinetti, io ho sempre preferito l'IPT 3006, tipo i Samurai che sono simili Pluto, 3009, tutta quella famiglia lì. Anzi, mi dispiace che questo è componenti classici ancora, no? Il 3009, solo che la Proxel l'ha tolto dal catalogo, la CRT France l'ha tolto dal catalogo, mi pare che anche la spagnola Piernaz l'abbia sotto al catalogo, quindi se qualche ditta non organizza qualche fornitura, questi spariranno. E alla fine troveremo solo baracchini insieme lì. Come già mi pare che sia ormai il 90-95% siano tutti solo SMD. Vabbè, tempo passa, d'altronde tutto quello che esiste SMD, cellulare, cosa. Però certi baracchini sono usciti male in SMD, le prime versioni tipo il BSX, no, non dava problemi, ne ho letti tutti i colori sui vari forum. Sì, immagino sono belle radio comunque, 3009, Tornado, tutta quella serie Pluto, quella serie là, là. Mi sembra di aver sentito sottofondo lì a Giulio, avanti Giulio. No, forse non è lui. Per esempio avevo... mi era rimasto dagli anni 90 il Connex 4000 Echo, funzionante. L'unica cosa che avevo eliminato era il bip fisso, perché era fisso il bip. E lo stesso avevo la IPT 3006, naturalmente la versione di allora, questa mi pare siamo arrivati alla 15C o 15F, non mi ricordo, penso che sarà l'ultima versione. Poi l'avevo passato a Pomponio, quello lì, l'avevo regalato, mi pare. Anche io quello ce l'ho avuto, ma almeno è una radio che ce l'ho avuta, ma non è che mi piace tanto. Va. Avanti, faccio riprendere a Gianni. Gianni! Ehi, ehi, no, adesso stavo pensando alla CTE. Io mi ricordo anni fa, la CTE, vabbè, produceva anche apparati broadcast in campo radio e TV, quindi insomma era una cosa abbastanza seria e quindi le cose le sapeva fare bene. Adesso non so un po' se è ancora attiva, che fine ha fatto, insomma non so, voi sicuramente ne sapete più di me. Baracchinetti, roba Bluetooth, videocamere Action Cam, no, Midland, ma a che livello broadcast? Ma roba amatoriale o roba professionale? Io ricordo che la CTE vendeva una piccola trasmittente FM 8808, no? Aveva roba di 2 watt solo, ma usa pompone, ti attaccavi un'antenna taratta e ti facevi la radio di quartiere, la radio FM di quartiere, quando le frequenze ancora non erano, vabbè, libere tra virgolette, dai, diciamo. No, cioè, per quello che mi ricordo, credo che poi sia stata rilevata, se non sbaglio, adesso non voglio dire cazzate, dalla Midland, ma la CTE era una ditta italiana, produceva apparati di ricezione e trasmissione in alta frequenza per radio e TV, insomma era un marchio abbastanza riconosciuto proprio per il tipo di qualità che offriva. Infatti mi è capitato alcune volte, ma ti parlo di un po' di anni fa, anni 90, di aiutare un amico che fa il controllo di ponti TV, e ho visto alcune postazioni dove c'erano apparati CTE, quindi stiamo parlando di roba assolutamente professionale. Poi non so cosa sia successo a livello di manageriale, insomma, se poi si è unita alla Midland per fare apparati CB o altro, capito? Oh, Massimiliano, tu niente ne sai, probabile che fossero anche comunque apparecchiature per le aziende, apparecchiature professionali per aziende, e poi da una parte c'era il catalogo CTE Midland per consumer, no, per consumatori, così al pubblico. Adesso il catalogo arriva con nome Midland, c'è il sito Midland Europa, ma francamente non so se esiste ancora la CTE. Massimiliano, niente ne sai, c'è più nessuno. Francesco, niente sai se la CTE come ditta individuale esiste ancora o è diventato tutt'uno Midland Europa? Penso che sia associato, ti rispondo io Marco, penso che sia associato come Midland, perché su CBTalk parla anche di CTE. Ah, ok, capito già. però mentre prima usciva proprio il catalogo CTE con la roba Midland, adesso il catalogo è marcato Midland, si sarà fusa, diciamo, forse gli conveniva alla CTE fondersi con una multinazionale, anche per sopravvivere. Vai Gianni. Sì, infatti ti ripeto, anni fa avevo visto in queste postazioni, insomma, degli apparati di un ponte TV marchiati CTE International, a detta di chi faceva la manutenzione, era roba assolutamente di altissima qualità. Poi magari per le fasce più basse, consumer, per il tipo di radio CB e cose del genere, praticamente ha unito gli sforzi con un grosso marchio straniero. Però ti ripeto, a memoria d'uomo mi ricordo che sia anche a qualche radio privata, adesso non mi ricordo, non voglio dire sciamette, comunque qualche radio a Sassari, una delle più grosse, aveva degli apparati CTE in trasmissione, parliamo di radio FM, attenzione. No, quello è una cosa che non sapevo. Ricordo solo quella specie di trasmettitore giocattolo FM. E lo sai che Pomponio da Viareggio arrivava a casa, magari in mezzo alle stazioni più forti, mezzo coperto, ma arrivava. Che poi sono come quelli che vengono dalla Cina, i trasmettitori FM 88-108, hanno l'ingresso tipo per lettori MP3, no, un ingresso audio costante, un ingresso microfono, se vuoi parlare anche al microfono, no, e hanno tipo 15 watt di potenza, tutto PLL, no, cioè sta abbastanza stabile in frequenza, in certi siti ti danno addirittura l'antenna 88-108, solo che adesso ti trovi il furgone minimo in 5 minuti sotto casa. Eia, sì, mi ricordo anni fa, anni 90, metà, fine anni 90, in Italia imperversavano le radio di quartiere, addirittura non solo le radio, anche qualcuno aveva fatto l'esperimento della TV di quartiere, che, insomma, piccole stazioni che trasmettevano, avevano un raggio d'azione di 500 metri, un chilometro, e alcune TV trasmettevano le partite di calcio, piazzavano i volantini con la colla nei lampioni, e ti potevi vedere le partite craccate da satellite. Poi vabbè, chiaramente li hanno sgamati, però era una bella realtà, cioè c'erano le radio condominiali, le TV condominiali, cioè dove praticamente gli appassionati uscivano di casa con la propria videocamera, facevano le interviste, sai, si ingegnavano a fare un piccolo notiziario del quartiere, insomma erano anche carine come cose, dai. Sai che avevano... Ah, Giulio, dimmi, cosa hai detto che non passavi sotto? Ho detto, sto chiudendo, salutami tutti perché sto chiudendo, che devo cenare e subito dopo c'è subito un'altra partita, la più importante per me. Ehi, Giulio, dai, buona visione, buona cena, buon tutto, dai, ci sentiamo poi. Io, per quanto possibile, cercherò di entrare, dai. Tanto l'alternativa è stare attaccato allo smartphone ed è peggio. Ok, Gianni, avevano ipotizzato, siccome le radio AM, sai, quelle dai 520 kHz, sai, adesso non mi ricordo a quanto arrivava, no, la radio AM, avevano ipotizzato di fare anche, sempre a livello privato, con le radio di quartiere su quella frequenza AM. Però non so con che apparecchiature, no? non ho idea proprio. Ma questa cosa della M, no, personalmente non ne ho, cioè non mi è capitato di sentire niente. Per le altre invece, insomma, ci sono stati diversi esperimenti, poi ti ripeto, hanno esaurito tutto perché molti hanno giocato sporco e niente, li hanno giustamente chiusi. Vabbè Marcolì, io colgo l'occasione per questo passaggio di salutare Giulio, che insomma ha salutato anche lui, saluto gli altri in ascolto se c'è qualcun altro, saluto a te e ci aggiorniamo prossimamente. Buona buona serata, buona cena e buon tutto. Saluti a tutti, ciao ciao. E io Gianni, dai, sentiamo. Sì, non fa far niente adesso con queste leggi. Tutto sul penale si va per una fesseria, per carità, lasciamo perdere. Sta diventando una specie di regime tutta l'Europa. Anzi, lo è già. Ci sentiamo già. Ciao, ciao, buona serata. Francesco, ci sei ancora?